1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, eccoci cari ascoltatori, le 7:18 minuti, ben ritrovati e ben svegliati se vi siete aggiunti ora, cari miei debosciati che non siete altro. Vi ricordo che oggi parleremo alle 8:15 di questa tragedia che è successa al largo dell'isola dei Conigli, vicino a Lampedusa. Come sapete, oggi è anche lutto nazionale. E una rassegna stampa che è dedicata in gran parte per la lettura dei giornali, quasi tutti aprono e dedicano tante pagine, soprattutto con racconti e anche fotografie, anche con le immancabili polemiche all'italiana. Ne abbiamo già parlato alle 6:30, qualcosa ho già detto, mi sono veramente imbestialito oggi quando ho letto alcuni articoli di giornali, ma tant'è, dobbiamo raccogliere anche questo lato del nostro paese, l'italianità. E va bene così. Andiamo allora a leggerli, a sfogliarli questi giornali. In questo venerdì 4 ottobre i titoli: Il Sole 24 Ore ha la notizia di Lampedusa in prima pagina, ma il titolo principale è Manovrina subito, poi l'IMU, e poi a fianco Ecatombe a Lampedusa, si rovescia un barcone, morti centinaia di immigrati. Tra l'altro è il titolo di quasi tutti gli altri giornali: Corriere della Sera, strage di migranti, l'Italia è in lutto, Repubblica, la strage della vergogna. Voi dovete immaginare che tutti i titoli sono corredati da foto che sono davvero dei pugni nello stomaco, le trovate sui giornali, molto forti. Per esempio sono le foto che pubblica La Stampa sotto il titolo L'ecatombe di Lampedusa, perché sono le foto che sono state recuperate evidentemente dal barcone, sono foto di gioia, di spensieratezza di queste persone, molte delle quali non ci sono più, sono morte, e sono le foto che le ritraggono sorridenti in patria. Il cimitero dei migranti è il titolo anche del Messaggero, mentre il giornale titola 300 morti di buonismo. Il Fatto Quotidiano: mare di morti ma nessuno muove un dito. Avvenire, tragedia, dolore e vergogna. L'unità, la nostra vergogna. E c'è la foto di un cadavere in mare. Vite da niente, questo è il titolo invece del Secolo XIX, mentre il Manifesto: morti ammazzati, mette la foto con le tante salme sul molo. Libero invece ha una doppia apertura, sicuramente su Lampedusa, ma anche il titolo di politica: cosa deve fare Alfano. Allora io voglio partire dal racconto della cronaca. Sono tanti i cronisti che sono andati lì. Io ho in mano davanti a me La Stampa, dove Domenico Quirico, che è diventato famoso soprattutto ai lui negli ultimi mesi per il rapimento che ha subito in Siria, ma Domenico Quirico, quando era meno famoso per questo, da inviato fece, camuffandosi in mezzo in Africa, in mezzo agli altri migranti, quella stessa tratta su un barcone di fortuna. E allora ecco che Domenico Quirico torna a Lampedusa, io di nuovo sul molo della morte, prima pagina della Stampa, racconta e scrive: esiste per ogni uomo un luogo dove gli è impossibile divertirsi, dimenticare la propria vita, dove non possiamo giudicare o condannare, semplicemente lì abbiamo visto, sappiamo. Per me questo luogo è Lampedusa. Non sapevo prima di arrivare qui che esistessero esseri buttati via come l'immondizia quando non sono ancora morti, che nessuno vuole soccorrere, che muoiono a poco stremati dai mali, disfacendosi lentamente all'aria aperta. Fu una scoperta casuale dopo un viaggio in fondo al quale c'era quest'isola. Qui non potrei mai, come gli ultimi turisti abbronzati che ci abbattavano ieri nel dolce imbrunire d'autunno, andare al porto a guardare i morti, dove mai potrei immergermi nel mare. Lampedusa, la terra qui non ama gli alberi e neppure gli uomini li amano, la terra secca e dura non li nutre, ma il mare. Qui c'è una mia storia scritta nel mare, indecifrabile per i non iniziati. Passo proprio di fronte al molo, davanti al cimitero dei relitti, le barcacce dei clandestini, nessuno ha il coraggio di portarle via, distruggerle, i colori un po' stinti di 2 anni fa. La mia barca non c'è perché è affondata, come quella di questi africani, dei morti di ora. Due anni fa sono sbarcato su questo molo. Io ero uno di loro da Zarzis in Tunisia a Lampedusa. 20 e più ore di mare, poi il naufragio e la morte, per fortuna, per la mano fraterna di uomini coraggiosi, per noi soltanto sfiorata. Anche allora, se il mondo fosse stato appena creato per ospitare gli angeli, su quel mondo non avrebbe potuto albeggiare giorno più bello. Cammino sul molo, quel molo, in mezzo ai curiosi, alle televisioni che raccontano, che cercano di spiegare. I miei compagni naufraghi 2 anni fa scesero a terra avvolti in fogli di plastica luccicanti come corazze. Ora sfilano sacchi neri dei morti. Ho già descritto il luccichio al sole d'autunno delle tegole, delle rocce, un paesaggio palpitante, fraterno, dove il vento al crepuscolo è il soffio vivo e caldo di una creatura di Dio. Qui ho imparato che soffrire sembra una cosa meravigliosa all'uomo che si è sentito vicino alla morte e scopre di essere improvvisamente salvo. Qualcuno, pescatori dagli occhi scuri e lustri come olive nere, si ricorda ancora di me. Tu sei vivo». I miei 112 compagni, di pochi ricordo ancora il nome, in mare schiacciati sul ponte per guadagnare spazio, lo spazio costa e rende ai passeur, assediati dalle onde, non si parla, chi si ricorderà dei nomi di questi morti? Visi troppi evanescenti, ahimè, perché un solo tratto ne sia riconoscibile, si stagliano nella curva degli scafi, si muovono come foglie, vorrei che in me, con me, risalissero l'abisso, potessero respirare all'aria aperta anche questi nuovi morti. Perché raccontare non può essere una resurrezione? Perché le storie che scriveremo domani sui giornali non possono far rivivere il loro intimo, le vite segrete dei loro cuori? 2 anni fa mi imbarcai per capire e tentare di capire. E poi prosegue, in realtà sono racconti molto lunghi che trovate a pagina, in questo caso 2-3 della stampa, ma... Ci sono anche le testimonianze, per esempio Gabriele Guccione intervista Raffaele Colapinto, capitano armatore del peschereccio Angela C, che racconta, pagina 4 di Repubblica, il mare attorno a noi pieno di teste, ne ho salvati 18 e poi ho solo pianto, erano tutti pieni di gasolio, non riuscivamo a tirarli su, ci scivolavano dalle mani, stavamo rientrando al porto verso le 7:30 quando ho visto una barca che tirava su persone. Sotto di noi ci siamo trovati di subito una marea di teste, pieno. Cercavano aiuto, io buttavo la cima, ma loro non riuscivano a prenderla nemmeno a 10 centimetri, non avevano la forza di tirarsi su, erano stremati. Per tirarli su ci mettevamo 10 minuti ciascuno, scivolavano dalle mani inzuppati di gasolio. Francesco, mio nipote, voleva buttarsi in mare per portare il salvagente a un ragazzo, ma l'ho dovuto fermare, era troppo pericoloso, l'avrebbero tirato giù. Abbiamo raccolto 20 persone, 18 vivi, 2 donne morte. C'erano tante donne, tanti ragazzi. Una sembrava morta, l'abbiamo portata su perché era tenuta per la maglia dalla sorella. Si poteva salvarne di più e come? Come? Tornando un'ora dopo sono scoppiata a piangere. E a me per farmi piangere ce ne vuole. Non siamo razzisti, bisogna andare a prenderli da vivi, non da morti. Se ritardavamo ancora mezz'ora non si salvava nessuno. Le polemiche sono divampate subito in Italia, all'italiana, l'avete sentite? Gianluca Pini della Lega che dice la responsabilità morale della Boldrini, della Chienghe, la Chienghe che il ministro Chienghe che intervistata da Repubblica da Vladimiro Polchi a pagina 9 dice su quel barcone al posto di quei disperati ci potevo essere io, una tragedia immane, un dolore terribile che mi paralizza. E alla domanda sull'accusa della Lega dice: nel momento del dolore è triste vedere che c'è chi specula su delle vite umane. Oggi è stato segnato un punto di non ritorno rispetto alla Lega. E poi però anche lei dice: ora cancelliamo la Bossi Fini. Ecco, io lo dico, l'ho già detto in maniera trasversale, l'ipocrisia a 360 gradi, cioè parlare non tanto e non solo di come evitare queste tragedie, ma anche buttarla subito in politica. Come racconta Franco Bechis su Libero, il titolo è a pagina 3, le sinistre iene di Lampedusa già si avventano sui cadaveri. Scrive Bechis: i progressisti sbraitano contro la Bossi Fini, chiedono la cittadinanza facile. I grillini denunciano, così sono tagliate le spese alla difesa. E nel PDL sentite per esempio Federica Chiavaroli, racconta Libero, da non credere ai propri occhi la dichiarazione che riportiamo testuale. Il naufragio lungo le coste di Lampedusa verificatosi nelle ultime ore, ha detto l'onorevole Chiavaroli, accende i riflettori sull'assoluta necessità di un governo solido. È proprio in questa prospettiva, per il grande senso di responsabilità che ci lega al Paese, che abbiamo scelto di votare la fiducia al governo. Cioè legare, come scrive Libero, come dire benvenuto naufragio che rendi più forte e necessario il governo Letta. Ecco, sulla pelle dei profughi, titola Libero, le polemiche di questo tipo. Tra l'altro, una notizia in questa tragedia, almeno che sembra di piccolissimo conforto, Ilaria Sacchettoni, pagina 3 del Corriere della Sera, e lui il mercante di persone, è stato fermato il presunto scafista tunisino, era già stato a Lampedusa 3 anni fa, ad aprile, secondo quanto affiora dagli investigatori, anzi il tunisino era sbarcato con altri profughi su un'imbarcazione simile a quella di ieri, allo stesso modo precaria, ugualmente redditizia. Fate conto, ci saranno forse state 400 persone e a 1.000-1.500 dollari a passaggio fate il conto di quanto si possa recuperare anche 300, 400, 500 mila dollari con un solo doppio viaggio andata e ritorno così tragico. Non sono finiti gli articoli su questo tema, ce ne sono tanti, ce ne sono anche di polemiche, come il fatto che il sindaco di Lampedusa ha detto ci sono 3 pescherecci che hanno fatto finta di non vedere, un'accusa pesante, poi anche dicendo ma forse perché la Bossi Fini, la legge lì rischia di far piovere su di loro un'accusa, nel momento un'indagine, nel momento in cui dovessero aiutare delle persone poi clandestine, perché poi quando vai a salvare una persona in mare non sai mica questa persona se è una persona che ha diritto di chiedere il diritto d'asilo, se è un rifugiato politico, se scappa da una guerra, se è un criminale, se è una persona che non ha diritto di entrare in un paese, lo fai e basta. Eppure l'accusa è questa, 3 pescherecci hanno fatto finta di non vedere. C'è anche questa polemica, ma c'è dell'altro. Davvero in questa giornata in cui la rassegna stampa è molto dedicata a questo, e riprendiamo da qui dopo la pubblicità. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua, allora, come detto, alle 7:34 minuti, sono tanti gli articoli dedicati a questa vicenda, parla anche il commissario per l'integrazione Cecilia Malmström, intervistata dalla Repubblica, Andrea Bonanni, la intercetta a New York, dove pensate si parla proprio dei temi, c'è una grande manifestazione, un grande incontro internazionale sui temi dell'immigrazione, dice l'Europa farà di più contro gli scafisti, ma l'Italia ha già avuto i fondi che servono. Certo, l'Europa deve fare di più, i suoi stati membri devono mostrare solidarietà in maniera concreta, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi, abbiamo già migliorato la nostra capacità di identificare e soccorrere le imbarcazioni, ma non sempre è possibile farlo in tempo. E comunque l'Italia ha già avuto i fondi. Tra l'altro il portavoce di Cecilia Malmström, siccome è italiano, parla dunque la nostra lingua, un connazionale, si tratta di Michele Cercone, sarà nostro ospite alle 8:15, quindi per fare le domande all'Europa, quell'Europa di cui si dice deve essere più responsabile, o meglio ieri poi Alfano ha detto 3 volte deve occuparsi di questa vicenda, ma insomma sono tutte dichiarazioni di prassi, anche come le passerelle che vengono fatte contro le quali tuona oggi per esempio Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa, no? Scrive Gramellini, quanta ipocrisia, sulle facce dei potenti li state a lutto, mentre le vittime della strage annegano una seconda volta nella retorica, quanto cinismo tra i leghisti che considerano una soluzione respingere i disgraziati affinché si rassegnino a morire a casa propria, lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Intanto in TV va in scena il rito della commozione a reti unificate, la ricerca del caso umano, l'intervista all'eroe da esibire nel talk show per dimenticare le radici di questo dramma. Finché i disperati, in fuga dalla violenza, dalla miseria, marcivano a spese nostre nei lager di Gheddafi, nessuno si interessava alla loro sorte. Adesso che le gabbie si sono aperte, le bagnarole dei banditi hanno ripreso il largo, si piangono i morti e si continuano a ignorare i vivi. L'Europa, che fa la morale all'Italia per lo sfondamento di un parametro economico, la dimensione non regolamentare di una zucchina, tratta Lampedusa come se fosse una provincia romana anziché l'avamposto di un continente. Tutti sanno che l'unica soluzione consiste nel pattugliare le coste africane, mettere in salvo quei poveri cristi prima che le bagnarole affondino, invece di fingersi ogni volta sorpresi per il loro arrivo. Ma iniziative simili richiedono un cuore e una testa, non solo un apparato lacrimatorio da sepolcri imbiancati. Richiedono una visione politica che nell'Europa dei paurosi sembra avere fatto naufragio. Così Gramellini racconta, tra l'altro, il Sole 24 Ore, ed è a carta straccia l'accordo con la Libia, visto che ci sono stati 30.000 sbarchi da quando è stato fatto. Vabbè, succedono cose orribili, come per esempio che su questo tema scriva sul Manifesto un articolo Harry De Luca. Ma è quello Harry De Luca, i sabotaggi, è un onore fare i sabotaggi? Beh, ma insomma, tante volte bastano il titolo e la firma. Vi presento l'Italia peggiore, Harry De Luca. Ecco, è già esaustivo così. Andiamo avanti. E allora, la politica in tutto questo. Sui giornali oggi, ovviamente, la politica italiana viene un pochino abbandonata, anche se un pochino, i soliti retroscena, le solite 4-5 pagine di nulla più o meno ci sono, si trovano. Allora, il tema è sempre quello del Popolo della Libertà, anche se è stata una giornata ovviamente nella quale Berlusconi, Alfano, Falchi, Colombe, Pitonesse, Caimani, Leprotti e Vampiri, Conigli e non so, e Piccioni si sono visti poco, perché ovviamente tutta questa vicenda Lampedusa, per esempio, ha impegnato Alfano come ministro dell'interno, che è dovuto andare subito a fronteggiare questa situazione. Comunque, nel PDL si tratta alt ai gruppi autonomi, così titola il Corriere della Sera, pagina 12, vale a dire l'ex premier Berlusconi, che ha detto non c'è alcun dissenso, solo un po' di dialogo e dibattito interno, visto che prima ci accusavate di essere un partito di plastica, invece adesso discutiamo, ma non si capisce bene Che cosa succederà. Insomma, questa fiducia poi concordata al governo Letta ha anche annacquato, ha buttato un po' di acqua sul fuoco che all'interno del Popolo della Libertà stava divampando. Beh, Marina Berlusconi, come racconta Francesco Verderami in un retroscena, pagina 13 del Corriere della Sera, ha ribadito ancora ai suoi: una cosa sono le valutazioni personali, altre le valutazioni politiche. In una fase come questa devono prevalere valutazioni politiche, e sulla sua possibile discesa in campo dopo il padre, per qualche modo prendere in mano le redini del partito, dice Marina Berlusconi, l'ho già smentito più volte, non ho mai partecipato, non ho intenzione di partecipare alla vita del partito, non mi ritengo né Falco né Colomba, mi ritengo quello che sono, una figlia che cerca di stare il più possibile vicino a suo padre e ha a cuore soltanto una cosa, il bene di suo padre. L'appello di Marina: preservare l'unità di partito, esercitarsi per restare insieme. Mio padre non è patrimonio né dei Falchi né delle Colombe. E insomma, la notizia vera è che per l'ennesima volta smentisce il proprio impegno diretto. Mentre, che dire di Giovanardi? Cioè, c'è un titolo a pagina 8 di Libero che è questo. Aprite bene le orecchie, perché io l'ho dovuto rileggere, capite, alle 5:30 del mattino uno arriva e fa un po' fatica. Noi non ci fermiamo, Angelino è il nostro Bergoglio. Così Giovanardi, Angelino Alfano è il nostro Papa Bergoglio. Ecco, voi capite che poi si fa un po' fatica a trattare e ad avere a che fare con il giornale La Politica Italiana, ma argomenta nell'intervista, intervistata da Brunella Bollioli: guardi che io non ripudio nessuno, non ho mai ripudiato Berlusconi, non sono un rottamatore, ma quando Ratzinger si è dimesso non è che ha chiuso la Chiesa Cattolica, è arrivato Francesco. E Ratzinger non è sparito, continua a avere un ruolo importante, però adesso c'è Bergoglio. Ecco, questa è il paragone molto pacato, molto calzante, che Giovanardi fa tra la situazione del Popolo della Libertà, tra Berlusconi e Ratzinger in pratica, e Alfano e Papa Bergoglio. No, vabbè. Vorrei continuare la politica, ma vorrei subito un aiuto. Mauro Meazza del Sole 24 Ore, mamma mia. Mauro Meazza, ciao, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Non è proprio un gran pallone quello che mi fa. No, adesso, infatti ho detto adesso sono in difficoltà, l'attaccante sta segnando ma spunta il Franco Baresi della situazione che mi salva, no, in corner. Cioè, sì, grazie, fai onore al tuo cognome un po' meno al mio. Meazza, fai qualcosa, Berlusconi, Ratzinger, ma è arrivato Papa Bergoglio. Capisco che di fronte a certi paragoni poi in una giornata come questa in cui i giornali giustamente danno spazio a questa tragedia, è chiaro, di Lampedusa, in questi casi ci si salva in corner dicendo prima della politica parliamo d'altro, sul Sole facciamo una strambata, sul Sole 24 ore cosa c'è? Guarda, sul Sole 24 ore noi presentiamo diverse cose interessanti, innanzitutto visto che siamo quasi in vista delle informazioni sul traffico, tra 2 anni, se tutto va bene, non si pianta nulla nell'attuazione, non dovrai più esporre il contrassegno dell'assicurazione sul parabrezza. Te lo spiega Maurizio Caprino oggi sulle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore. È un'attuazione abbastanza lunga ancora, ci vorranno un paio d'anni. Infatti mi chiedevo proprio questo, perché tra 2 anni in Italia perché bisogna costituire una banca dati, la banca dati deve essere aggiornata. Insomma, però abbiamo buone speranze, la norma c'è, il primo decreto attuativo c'è, quindi adesso piano piano arriveremo anche a questo cambiamento che mi sembra molto importante nei costumi di noi automobilisti. Mm. E poi sempre appunto ti segnalo questo, sempre con un po' di disagio, come dire, a parlare di redditometri in una giornata come questa, ma Befera ieri è andato al Salone della Nautica, ha detto guardate non faremo tutti i 35.000 i controlli che ci siamo prefissati, per quest'anno ne faremo meno. Quindi sempre un po' come dire questo redditometro che è sempre ammorbidito. Molto temuto, sì molto temuto come sai da tanti di noi, anche da chi non ha nulla da temere ma che teme un po' l'applicazione indiscriminata di questo strumento, applicazione che Befera ha escluso più volte. Ma questo è importante. Allora grazie Mauro Meazza, intanto io prima per il salvataggio in corner soprattutto Alfano, Papa Bergoglio del Popolo della Libertà, grazie a Mauro Meazza, ovviamente ti ritroveremo lunedì, stavo dicendo domani ma domani è sabato, forse tu sarai anche sabato, non lo so, io no sicuramente. Intanto sulla questione della politica i retroscena appunto abbondano, sono tutte sulla situazione di Berlusconi, la rassegnazione del Cavaliere per Repubblica, basta, lascio il partito ad Angelino, pare ci sia stato un faccia a faccia, cioè c'è stato sicuramente un faccia a faccia, ma pare che in questo faccia a faccia Alfano abbia chiesto a Berlusconi dimettiti da senatore prima che la giunta oggi decida, un qualcosa che Berlusconi ha allontanato, come dire, questo non se ne parla. Ma gli articoli più straordinari sono Mattia Feltri oggi sulla Stampa, pagina 11, stressato e fragile, finale di partita amaro per il Cavaliere stanco. Racconta Mattia Feltri, chi gli è vicino lo descrive incline alla lacrima e smarrito, con un unico punto fermo da difendere, l'unità del partito. Dice il dottor Zangrillo, scrive Feltri, che il suo paziente più famoso, Silvio Berlusconi, è sotto stress. Altri sprovvisti di titoli scientifici dicono che è provato, sfinito, incredulo, fatica a realizzare quel che è successo, che non è presente a se stesso, non sempre perlomeno, ma fino alla notte precedente era stato soggetto a crisi di pianto che per lui sono una costante. Tutti lo hanno visto piangere in aula, singhiozzare subito dopo aver pronunciato il breve discorso della fiducia al governo, ma pare che abbia pianto anche poco prima al Senato dopo incontro con Nunzia De Girolamo. Lei piangeva di rotto, lui aveva gli occhi arrossati, ha pianto ancora più tardi a Palazzo Grazioli mentre incontrava alcuni dei suoi. E insomma, un Mattia Feltri che racconta, Berlusconi ha anche detto martedì notte intorno alle 2 Angelino è venuta a trovarmi a Palazzo Grazioli e non per convincermi a votare la fiducia, ma mi ha detto delle cose che porterò per sempre nel cuore. E anche lì gli tremava la voce. Vabbè, succede a una certa età e succede anche l'altro articolo di colore, ma un retroscena che Repubblica mette in prima pagina, la Pascale litiga con Verdini. Vai via subito da casa mia! Pare che all'ennesima giornata finita dopo una pizza, racconta Francesca Pascale, era a mangiare una pizza, racconta Tommaso Ciriaco su Repubblica, poi è tornata a Palazzo Grazioli a casa, ha trovato insomma le solite persone, Verdini, anche altri che parlavano con Berlusconi, a un certo punto è sbottata la Pascale, ma insomma questa è anche casa mia, via tutti, a quel punto racconta Repubblica 10 minuti di urla tra Pascale, Verdini, nervosismo che sale, il volume della voce pure, forse Dudu, forse è intervenuto anche Dudu, non lo so, tutti smentiscono il giorno dopo, ma Repubblica dice no c'è stata questo litigio con chissà se la Pascale ha scatenato contro Dudu a Verdini, che è bello e grosso, mentre Dudu è un po' piccolino, questa è anche casa mia, via tutti, traffico. E vabbè, c'è Alessandra Mussolini che sul Quotidiano Nazionale dice: chiamatelo Alfini, Alfano, chiamatelo Alfini, traditore. Alfini ha tradito, un problema di delfini. Alfini, delfini. Un problema di delfini che a un certo punto tradiscono e si credono in grado di fare i leader e poi finiscono male. Come fini? Vedo che capisce, dice Alessandra Mussolini all'intervistatrice che è Elena Polidori. Vabbè. In tutto questo oggi la Giunta al Senato vota la decadenza Berlusconi, che ha detto, incontrando i giornalisti dopo una serata, insomma qualche microfono, ha detto non sarò a difendermi alla Giunta perché la sentenza è politica, questi giudici e questi senatori non sono imparziali. E poi la Corte Europea annullerà la mia condanna, e quindi il fatto che non si aspetti questo, si dice sicuro, Berlusconi dice non sarò a questo voto, oggi ci sarà, poi attenzione, la decadenza, la Giunta voterà la proposta di decadenza, voterà la decadenza, poi sarà il Senato che dovrà votare in seduta, tra l'altro a scrutinio molto probabilmente segreto, la decadenza effettiva. C'è il Fatto Quotidiano invece che oggi si concentra su una vicenda che riguarda Pierluigi Bersani, o meglio la sua segretaria. La vicenda è nota, ma ora è approfondita da Marco Lillo sul Fatto. Il titolo è questo: l'inchiesta sul conto di Bersani e della segretaria indagata. C'è un'indagine aperta su un conto corrente intestato a Bersani e alla sua segretaria Zoia Veronesi, sul quale sono affluiti nell'arco di molti anni contributi privati. La Procura di Bologna ha trasmesso 3 settimane fa in gran segreto alla Procura di Roma, molto segreto visto che oggi è sul Fatto Quotidiano, un fascicolo senza indagati riguardante il conto dell'Agenzia Banco di Napoli alla Camera, particolare non da poco, finora rimasto segreto nonostante sia emerso più di un anno fa nelle indagini bolognese per truffa a carico della segretaria di Bersani. Su questo conto, racconta il Fatto Quotidiano, aperto nel 2000, alimentato con molteplici versamenti per una somma complessiva di 450.000 euro. C'è Bersani che viene intervistato dallo stesso Marco Lillo e dice: quel conto fu aperto con Zoia Veronesi per la gestione corrente della quale non mi potevo occupare, e lì sono confluiti i contributi elettorali regolari. Di cosa parliamo? Si arrabbia Bersani. Attenzione ragazzi, non sollevate palloni, sono quei soldi lì, sono stato chiaro? Tutto quello che è stato raccolto durante le campagne elettorali è passato dal mandatario, vale a dire il mandatario elettorale Sbordi. Tutti i soldi affluiti su questo conto sono stati registrati e versati da Sbordi. Basterebbe controllare alla Camera, bastano 10 minuti. Insomma, un ex ministro Bersani, ex leader del Partito Democratico, che arrabbiato risponde a questa vicenda, che comunque il Fatto Quotidiano mette con grande risalto, l'inchiesta sui conti di Bersani. Io ve l'avevo detto che si morirà Democristiani, e oggi noto che questo è un titolo un po' ovunque. Carlo Verdone fa un'intervista a Malcolm Pagani sul Fatto Quotidiano a dire: a questo punto avrei preferito morire Democristiano. Mario Giordano fa un intero editoriale di prima pagina dicendo: moriremo Democristiani e ci sta bene. Io ve l'avevo detto, non è che voglio fare quello che una volta che dico una roba che poi dopo viene prevista e sviluppata da tutti, ve l'avevo detto già da tempo, moriremo Democristiani, che era tornata alla DC. A questo proposito siamo alla conclusione della rassegna stampa con il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile, scovato a mio insindacabile giudizio sulla stampa di oggi, la stampa nel senso di vari quotidiani, e siamo su Libero, dove Brunella Bolloli trionfa. A proposito di Democrazia Cristiana, c'è Gianfranco Rotondi che dà le pagelle di C. Rotondi dà le pagelle di C. Angelino sembra Forlani, è paragonabile a Forlani, simpatico e per bene, però come tutti gli allievi a un certo punto vuol superare il maestro. Berlusconi, Fanfani, imprevedibile, nemico dei comunisti, liberale ma attento ai popolari. Napolitano non c'entra nulla con la DC. Monti poteva avere un ruolo tecnico vicino alla DC, come Guido Carli. E Letta è sintesi di Andreatta e di Andreotti. Ma basta, ma cos'è questo teatrino, questo giochino? Libero, amici di Libero, ricordatevi, la carta costa. Alfano è come Forlani. Ma come, Alfano non era Bergoglio, secondo Giovanardi? Non era Papa Bergoglio. E Berlusconi Ratzinger? Boh, vai a capire. Giornale radio.